Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio per il nostro spazio di approfondimenti e di ascolto. Continuiamo a ragionare di riforma, 500 anni dalla riforma luterana. È un percorso che abbiamo iniziato con il centro universitario la scorsa settimana, che proseguirà con un'altra serie di proposte che lo stesso centro di Via Zabarella ha fatto nelle scorse settimane. Oggi vi proponiamo invece uno degli interventi organizzati dalla Facoltà Teologica del Triveneto a ridosso proprio dell'avvio del cinquecentenario che cade quest'anno e in conclusione di quello che era stato il Giubileo della Misericordia. L'incontro si è svolto infatti lo scorso 10 novembre nella Facoltà Teologica del Triveneto. Giubileo della Misericordia, Giubileo della Riforma, una prossimità feconda. L'intervento che sentiremo tra poco arriva da Ginevra, dalla teologa luterana Elisabeth Parmentier della Facoltà di Teologia dell'Università di Ginevra. È stata un'intera giornata di studio con moltissimi interventi. Noi vi proponiamo appunto la parte centrale della mattinata di questo convegno accademico annuale della Facoltà Teologica del Triveneto. Tra poco allora sentiremo la teologa Parmentier. Partiamo dalla parte cattolica con padre James Puglisi del Centro Pro Unione di Roma. I giorni della Chiesa. Io sono uno studente di Paul Ricoeur, quindi parliamo un po' del contesto e come cominciare l'interpretazione di un tema, e quindi è bene che io do il punto dal quale che io sono partito per comprendere questo. E proprio Simone ha nominato la bolla dell'anno giubilario verso la fine, dove Papa Francesco parlava dell'indulgenza, non nel contesto che siamo abituati, ma in un contesto nuovo. Il contesto era: ogni grande religione implora la misericordia di Dio. E qui questo è il senso dell'indulgenza. E quindi io sono partito da questo, di capire che cosa è questa misericordia di Dio e come annuncia la verità dell'uomo in due figure, quella di Agostino e quella di Lutero. Per trattare questo argomento sarà innanzitutto necessario considerare biblicamente come la misericordia di Dio si riferisce e si definisce la verità dell'uomo. Ciò è importante poiché questa antropologia biblica sarà in gioco nella lettura del rapporto tra questi due concetti in San Agostino e Martin Lutero. Walter Kasper, nel suo lavoro sulla misericordia, illustra inoltre lo sviluppo del concetto della misericordia da Agostino attraverso il tardo Medioevo fino a Lutero e all'interpretazione di Agostino ad opera degli umanisti. Dopo una breve analisi biblica, allora considereremo come Agostino sviluppa la misericordia di Dio e successivamente come il frate Agostino Lutero riceve il suo insegnamento filtrato attraverso una successiva lettura scolastica della posizione agostiniana. Infine, si concluderà con una breve osservazione sull'importanza ecumenica della nozione di misericordia e verità e della qualità della libertà umana. Poniamo la domanda: che cosa è la misericordia? Ci sono diverse parole ebraiche che traducono il concetto di misericordia di Dio. Un primo termine è kaporet, i cui significati primari sono riscatto, propiziatorio e il trono della misericordia. Un secondo termine ebraico che significa amare, avere compassione o mostrare misericordia è racham. La terza parola associata all'idea della misericordia è chesed, che significa bontà, gentilezza, misericordia o amorevole gentilezza. Quando guardiamo al Nuovo Testamento e poniamo la stessa domanda, troviamo le seguenti parole greche connesse con il concetto di misericordia. Una prima parola è eleemon, che significa mostrare misericordia, avere pietà, avere compassione o essere misericordioso. Una seconda parola che veicola il concetto è compassione o pietà, e otre che mos. Se guardiamo una concordanza, possiamo vedere tre concetti principali che si trovano nella Bibbia per riferirsi alla misericordia, cioè pietà, misericordia o proprietà di Dio, che è l'amore. Il secondo di questi gruppi numerosi ed è centrato sull'attribuito essere misericordioso. Infine, il terzo gruppo, e più grande, si riferisce alla misericordia come un attributo della volontà salvifica di Dio. Collegata a questa idea è la persistenza della fedeltà di Dio a se stesso. Spesso si sente l'anametistico appello: ricordati, o Signore, della tua compassione, del tuo patto, del tuo proposito di creazione. Questo è particolarmente utilizzato in tutta la Bibbia ebraica. Nel brano del Nuovo Testamento si trova Gesù che esorta i funzionari ebrei o i suoi discepoli ad essere imitatori della misericordia di Dio nei rapporti con gli altri. Nelle epistole vediamo esempi della misericordia di Dio per la salvezza pratica dai discepoli o dai ministri cristiani che invocano la misericordia di Dio o ricordano questo attributo a coloro che hanno perso la speranza o si trovano in situazioni difficili. Nel cuore della Bibbia ebraica troviamo la risposta a quello che Dio richiede dalla persona umana per essere pienamente umano. Il Dio della misericordia chiede quanto segue in Michea 6:8. Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà e camminare umilmente con il tuo Dio. Queste sono parole rivolte a tutta l'umanità. Misericordia è offerto a voi e a me allo stesso modo. Egli ci ha mostrato ciò che è buono e offre la risposta a ciò che è richiesto da noi. Il profeta chiede a Dio in Michea 7:18: quale Dio è come te che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, per si compiace di manifestare la sua misericordia. Da questa risposta possiamo vedere che la qualità della misericordia, l'essere misericordioso, è l'attributo che identifica Dio. Nel suo libro sulla misericordia, Casper riassume i temi principali che si evincono dalla Bibbia ebraica in modo sistematico, focalizzando l'opera di Dio in relazione all'avvenimento dell'umanità a causa del peccato e alle sue conseguenze catastrofiche. In quest'opera Casper richiama il vero significato del nome di Dio come rivelazione della misericordia divina, cioè la natura stessa del Dio della creazione che ama ciò che Egli ha creato e vuole che sia salvo. Il mistero profondo di Dio è così radicato nell'eternità impercettibile di Dio e si manifesta nell'opera misericordiosa di Dio verso la creazione. Le conseguenze di questo dono gratuito della misericordia di Dio sono viste nel ristabilimento della santità, della giustizia e nel ritorno alla fedeltà da parte di Israele il popolo scelto da Dio. Quale ruolo svolge la libertà umana? Casper spiega che poiché Dio è un Dio della vita, egli desidera che gli esseri umani scelgano Lui. Tuttavia, Dio pone l'opzione per la vita dinanzi a tutta l'umanità. Pone una scelta: scegli la morte o scegli la vita. Scegliere la vita è visto in modo particolare come il provvedimento di Dio per la difesa dei poveri. Ciò che è importante ricordare è che Dio lascia sempre la libertà alle sue creature di optare per il giusto e per rivelare l'immagine che si imprime su di loro, che non è altro che lo specchio di questo Dio amorevole e misericordioso. I salmi sono i canti di lode per la realizzazione di ciò che Dio ha fatto per il suo popolo, che celebra Dio per questo dono libero e liberante dell'amore misericordioso. Anche i salmi di lamento sono trasformati in lode perché ci si rende conto di quanto Dio ha operato anche di fronte alle sofferenze. Trattando sistematicamente la manifestazione della misericordia di Dio nella persona di Gesù, Casper illustra la missione di Gesù in realtà come il Vangelo della misericordia di Dio. Tutta la tradizione delle parabole è un esempio della realizzazione di questa misericordia attraverso immagini che catturano l'attenzione degli uditori, perché questi esempi sono situazioni concrete e vive in cui i suoi ascoltatori sono impegnati quotidianamente. A volte Gesù si rivolge queste parabole ai leader religiosi che sembrano aver dimenticato che devono essere ministri della misericordia di Dio piuttosto che autorità astratte dalla legge. Gesù non cessa di ridurre le numerose legislazioni imposte sul popolo ebraico al fondamento di tutte le leggi, che deve essere l'amore, amore di Dio prima e poi l'amore del prossimo. Ciò che impariamo dal Nuovo Testamento è l'offerta disinteressata che Gesù fa continuamente in favore dell'altro. Questo è ciò che Papa Francesco intende come l'uscire continuamente verso la periferia, verso l'altro. Casper capisce il ministero di Gesù come l'illustrazione di un Dio che esce continuamente da se stesso nell'amore. Questo movimento della divinità si manifesta con la vita interiore della Trinità, per cui la compenetrazione delle persone nell'ineffabile amore scorre nella creazione. Nel tempo stabilito, ciò si inverna con l'incarnazione del Cristo, del Verbo, nella misericordia fatto carne. Il Nuovo Testamento testimonia la realizzazione della misericordia di Dio mediante il ministero di Gesù. La conseguenza dell'amore del Padre è vista nell'edificazione del regno di giustizia e di pace che Gesù ha definitivamente inaugurato e affidato ai Suoi discepoli. La manifestazione e la conferma dell'amore misericordioso di Dio si trovano nella risurrezione di Cristo come dono continuo della nuova vita. L'immagine con cui ogni persona è stata segnata diventa attiva tramite il potere dello Spirito nel battesimo, e come membro del corpo di Cristo ogni battizzato diventa un agente della misericordia di Dio nel mondo per la sua trasformazione e la costante edificazione del Regno. Nella testimonianza finale che Gesù dà di fronte a Pilato, Egli ci mostra come dobbiamo vincere lo spirito del mondo vivendo lo spirito delle beatitudini. Possiamo concludere da questo rapido excursus che la qualità della misericordia è un attributo di un Dio incontrato lungo la storia come clemente e ricco di misericordia. Questa misericordia è mostrata al suo popolo per amore per tutto ciò che Dio ha creato e come consolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. La Bibbia è piena di storie di nuovi inizi o nuove creazioni. Ogni volta che Israele deviò dalla vita indicata da Dio, il Signore misericordioso ha offerto possibilità di rinnovare il rapporto interrotto con se stesso. Questi sono i nuovi inizi che permettono di spezzare la spirale del male e che offrono la speranza per il ristabilimento di una vita con Dio. In questo noi partecipiamo alla verità della persona umana, che ha la capacità del male, ma anche la possibilità di essere rinnovata da Dio, perché Dio riconosce la propria immagine nella creazione e deve essere fedele a se stesso. È Dio che concede questa forza per il nuovo inizio. L'insegnamento dell'Antico Testamento è che la persona umana, in quanto creatura di Dio, una volta rinnovata, dovrà condividere questo nuovo inizio con gli altri in modo di ripristinare la speranza per la stessa novità della vita. Come Dio, a motivo del suo amore gratuito e della sua misericordia, viene in aiuto dei poveri che gridano a Lui, così anche coloro che hanno ricevuto la misericordia di Dio devono mostrare la stessa benevolenza verso chi è nel bisogno. Nel Nuovo Testamento, oltre al compimento dei comandi biblici, vediamo che Gesù insegna quale sia il vero fondamento delle leggi del giudaismo, ossia l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Queste devono essere messe in pratica e non solo recitati. Troviamo un esempio di ciò proprio nella testimonianza di San Agostino, così come è espresso nelle sue confessioni. Egli riconosce che la sua ricerca personale di significato e di felicità che seguivano percorsi esteriori ripetono a se stesso era stata inutile. È stato solo quando si è reso conto che egli aveva deviato lontano da Dio che ha compreso che Dio non era lontano da lui. A te sia lode, a te sia gloria, o fonte della misericordia. Sono diventato più misero e tu più vicino. Nella ricerca di Dio, nell'esperienza della presenza fedele di Dio, l'uomo scopre la sua propria verità. Se non realizziamo la misericordia di Dio ricevuta, non possiamo articolare il messaggio della misericordia di Dio agli altri che si trovano in difficoltà. Quindi si stabilisce una dinamica tra l'esperienza della misericordia di Dio e il modo in cui si diventa una presenza umana misericordiosa. Alla fine, questa è la verità dell'essere uomo, cioè di essere la trasparenza della misericordia di Dio che è stata ricevuta e applicata attraverso azioni misericordiose. Ora guardiamo un po' più profondo su Agostino. Agostino aveva una ricca esperienza di ricerca della felicità attraverso molte diverse traiettorie filosofiche. E perciò è solo quando egli scopre che Dio dentro se stesso e scopre che Dio era il desiderio del suo cuore che egli comincia a distanziarsi dallo stoicismo. Questo passaggio è chiaramente mostrato quando parla della sua esperienza della misericordia di Dio e ciò che significa questa misericordia in termini della propria verità, quale essere umano. Partendo dalla Bibbia, egli interpreterà il concetto di misericordia da una prospettiva linguistica, per cui misericordia si intenderà come avere il proprio cuore vicino al miserabile o sfortunato. In questo senso, la misericordia che si trova nella Bibbia è legata a coloro che sono in difficoltà per i più disperati motivi. Come Dio viene in aiuto dei poveri, così la persona umana che ha ricevuto la misericordia di Dio giunge, mediante un sentimento di compassione, a soffrire con chi è in difficoltà. Accorre tuttavia una precisione riguardo il rapporto della misericordia che gli esseri umani mostrano verso chi è nella sventura e cioè è ciò che Dio mostra. Mentre infatti, dal punto di vista umano, si può comprendere la natura affettiva di sentirsi uno con la sofferenza degli altri e quindi si viene motivata a mostrare misericordia, la misericordia di Dio invece non può essere intesa come essere colpite passivamente, ma solo in termini del superamento attivo e effettivo della sofferenza. Così Agostino collega la misericordia praticata dagli esseri umani alla fonte della misericordia che è Dio. Spesso egli parlerà della misericordia che ha ricevuto nella sua conversione e nella sua vita, ma anche alla luce dell'offerta salvifica che Dio fa a tutti i popoli. La miseria della condizione umana provocata dal peccato può essere cambiata e sottomessa dalla misericordia di Dio attraverso la cooperazione degli esseri umani. Da questo Agostino elaborerà la necessità di opere di misericordia che devono essere effettuate con amore. Egli chiama che queste opere buone, misericordiose o semplicemente giuste. Le opere di misericordia che Agostino cita sono numerose, tra cui la donazione di oggetti, il perdono e fare del bene agli altri e a se stessi. Diventa obbligo del cristiano cercare la misericordia di Dio e persino esigerà da Dio perché questo è davvero ciò che Dio vuole. Il Signore vuole che ci rivolgiamo a Lui per ottenere la grazia salvifica che scaturisce dal fonte della misericordia. In questo senso, il cristiano ha bisogno di mostrarsi capace di amore per comprendere i limiti sconfinati di questo amore. Allora Agostino ha bisogno di parlare di Gesù, quale fonte della misericordia. L'apice della misericordia, della manifestazione della misericordia di Dio, è riconosciuto nell'evento di Cristo. La kenosi della seconda persona della Trinità rivela la profondità del desiderio di Dio di offrire all'umanità un rimedio per il suo peccato di disobbedienza nella perfetta obbedienza del Figlio di Dio. Da loro scaturisce il Cristo stesso e dall'adossarsi la natura umana, umana condizione. Egli è, pur essendo senza peccato, diventato peccato per amore nostro. Per Agostino nessuna opera di misericordia può essere superiore a quella di Cristo, che ebbe compassione per la nostra miseria. Per questo motivo Cristo sostituisce per noi la punizione per il nostro peccato che è la morte. Casper spiega il funzionamento di questo espiazione sostitutivo quando egli scrive, e cito: secondo la concezione biblica, con il suo peccato il peccatore ha fallito la propria vita e merita la morte. La morte è il salario del peccato. Secondo la concezione corporativa biblica dell'uomo, questa miseria non riguarda solo il singolo, ma il popolo, e cioè tutta l'umanità. Il singolo contamina con la sua impietà la totalità del popolo. Perciò tutti sono caduti in balia della morte. Solo nel contesto di questa concezione cooperativa è possibile comprendere l'idea della rappresentanza vicaria. A motivo del comune irritimento del peccato e del comune caduta in balia della morte, nessun singolo può tirarsi fuori dalla palude. Soprattutto nella nostra qualità di uomini mortali, non possiamo ristabilire la vita con le nostre forze. Possiamo essere strappati dal peccato e alla morte soltanto se Dio, Signore della vita e della morte, non vuole nella sua misericordia la morte, ma la vita soltanto se Egli offre una nuova possibilità alla vita e la rende di nuovo possibile. Nessun uomo, ma soltanto Dio può redimerci dalla nostra profondissima e mortale miseria. Con la sua misericordia Dio vuole soddisfare anche la sua giustizia. Perciò Gesù prende liberamente in nostra rappresentanza vicario il peccato su di sé, anzi diventa lui stesso peccato. Essendo però figlio di Dio, non può essere vinto dalla morte, ma vince la morte. La sua morte è la morte della morte. In tal modo, egli è divenuto per noi la porta d'ingresso della vita. In lui, Dio si è dimostrato ancora una volta e definitivamente come il Dio pieno di compassione, per renderci possibile un nuovo inizio e rigenerarci nella sua grande misericordia. Questa è la motivazione che scaturisce dal ragionamento di Agostino, che a causa della misericordia di Cristo ogni cristiano è chiamato ad essere misericordioso verso gli altri. Nella sua predicazione Agostino di Ippona cita frequentemente il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, in cui egli vede la misericordia come profondamente incentrata su Cristo. Non solo non c'è nessun abbandono del prossimo per amore di Dio, ma nell'altro di amare il prossimo e presente Cristo. Agostino nelle sue omelie invita i suoi ascoltatori a venire a unirsi a lui nell'esercizio della misericordia attraverso le buone opere di misericordia, di perdono, di giustizia, dell'elemosina e di fare del bene agli altri e a se stessi. C'è una dimensione ecclesiologica nell'approccio di Agostino alla misericordia che ha a che fare con l'appartenenza alla Chiesa e alla sua unità. Criticando la separazione dei donatisti dalla Chiesa, egli collega il beneficio delle buone azioni per l'unità della Chiesa. Cito: chiaramente, pertanto, miei fratelli, non c'è alcun beneficio per loro di preservare la virginità per essere continenti di dare l'elemosina. Tutto ciò che esse lodano nella Chiesa non è di alcun beneficio per loro, perché essi hanno strappato la sua unità, cioè l'unità dell'unica della carità. Quindi Agostino ha compreso che la misericordia cristiana è partecipazione in Cristo e nella Chiesa, un mezzo e un segno di unità dei cristiani. Egli ricorda che la pratica delle opere di misericordia è stata indirizzata in modo particolare durante la Quaresima, quando si è dato risalto dalle opere di preghiera, di digiuno e all'elemosina. Le opere di misericordia erano segni della fede in Cristo, poiché la comprensione di Agostino delle opere di misericordia non si limita a considerazioni pratiche, sociali o economiche. Sono viste invece come mezzi per la costruzione della comunità cristiana. Celebrando e manifestando l'amore di Cristo, la misericordia e il sacramento della fede in Cristo. Viste in relazione ai sacramenti della fede, al battesimo e alla Eucaristia, le opere di misericordia aiutano a definire la verità della persona umana. In conseguenza, questa verità è confermata nella misura in cui la vita della persona rispecchia l'immagine di Dio, secondo cui lui e lei sono state create. Nella misura in cui ciascuno vive una vita di misericordia, sia ricevuta che data, rivela la verità su se stesso o se stessa. Chi vive secondo l'immagine e assomiglianza del Creatore, fonte di ogni misericordia e amore, si manifesta come un autentico, vero sé, cioè come parte della creazione di Dio. Ora guardiamo il monaco agostiniano Martin Lutero. Volgendo ora la nostra attenzione al riformatore del XVI secolo, potremo essere in grado di capire sia che cosa si sia frapposto all'insegnamento di Agostino, sia che cosa provocò la reazione di questo frate agostiniano al concetto della misericordia di Dio e delle opere buone. Innanzitutto, sappiamo che il giovane Lutero era estremamente scrupoloso e aveva una coscienza molto sensibile. Si potrebbe anche dire che era tormentato dall'ansia di sapere se avesse fatto abbastanza per essere salvato, interrogativo che lo condusse all'ulteriore domanda riguardo un Dio misericordioso. Se Dio ricompensa il bene e punisce il male, come potrebbe chiunque conciliare la misericordia di Dio con la giustizia divina? È stata la ricerca di una risposta a queste domande che ha portato Lutero, attraverso il suo studio della Bibbia, alla consapevolezza che la giustizia attribuita al peccatore scaturisce liberalmente dalla misericordia di Dio. Il tema che più tardi si svilupperà, almeno nella teologia occidentale, è quello tra la misericordia di Dio e la giustizia di Dio, ossia la questione della giustificazione del peccatore. La riscoperta di Lutero, che è alla base della riforma, è che la giustizia di Dio non è una giustizia condannante e castigante, ma la giustizia che rende giusti. La spiegazione di Lutero a ciò può essere trovata nella comprensione della kenosi di Cristo in obbedienza alla volontà del Padre, che mostra la sua misericordia verso i peccatori attraverso un meraviglioso scambio tra Cristo e i peccatori. Ringraziamo il teologo cattolico padre James Puglisi del Centro Pro Unione di Roma, e adesso l'intervento, pur in sintesi con la traduzione che è stata curata da Don Riccardo Battocchio, l'intervento della teologa luterana Elisabeth Parmentier della Facoltà Teologica dell'Università di Ginevra. Bonjour, donc malheureusement je ne parle pas l'italien, cette belle langue. Je remercie le professeur Battocchio d'avoir traduit mon texte. J'espère que vous me comprendrez malgré le français. Et je commence donc par cette citation du pape Francesco. Che vous avez normalement en Italia. Comincio da una citazione di Papa Francesco al numero 23 della Misericordiae Vultus. Quest'anno giubilare, vissuto nella misericordia, possa favorire l'incontro con queste religioni o con le altre nobili tradizioni religiose, ci renda più aperti al dialogo per meglio conoscerci e comprenderci. Elimini ogni forma di chiusura e disprezzo ed espella ogni forma di violenza e discriminazione. Il 31 ottobre 2016, l'évêque luthérien Muni Byunan. Il 31 ottobre 2016 il vescovo luterano Munib Younan e il pastore Martin Jung, rappresentanti della comunione costituita dalle 145 chiese della Federazione Luterana Mondiale, hanno dato il via alla commemorazione comune dei 500 anni della Riforma. Questo evento ha visto da parte della Chiesa Cattolica la partecipazione di Papa Francesco, un fatto straordinario per l'ecumenismo. Pour la toute première fois, des catholiques et des luthériens peuvent penser. Per la prima volta in assoluto, cattolici e luterani possono rivolgere assieme il loro pensiero a un momento che ha segnato la loro separazione. Questa nuova condizione dello spirito rispecchia i progressi compiuti in 50 anni di dialogo internazionale tra la Chiesa Cattolica e le Chiese della Riforma, dopo che il Concilio Vaticano II ha reso possibile questo dialogo. Il risultato importante è la convinzione comune che quanto unisce la Chiesa Cattolica e le Chiese sorte dalla Riforma conta di più di ciò che le divide, a cominciare dal comune fondamento. L'unità è un dono portato da Gesù Cristo che ha vinto l'odio. Ma questa unità chiede di essere concretamente vissuta tra i cristiani, in modo che la nostra testimonianza credente sia credibile in una società segnata dalla paura. Il segnale dato dai cristiani che cercano la riconciliazione, nonostante il passato che li separa, è urgente. Oggi, infatti, nelle nostre società è stato infranto un tabù. C'è odio tra i popoli, persino tra persone dello stesso paese. E questo odio è apertamente dichiarato, non ci sono più barriere, non ci sono più resistenze contro l'odio reciproco. Diventa dunque indispensabile che i cristiani si alzino in piedi assieme per resistere alle angosce profonde che dominano l'attualità. È urgente mostrare che il fine profondo di ogni religione è la pace tra gli esseri umani. Tutte le religioni devono rifiutare di lasciarsi strumentalizzare per ragioni politiche o economiche. L'ecumenismo tra i cristiani non è dunque opzionale, al contrario, è l'orientamento fondamentale della fede in Gesù Cristo che ci ha riconciliato con il Padre. Questa testimonianza fondamentale è il compito affidato ai cristiani. Ma come possono chiese separate tra loro testimoniare tutto questo? La riforma del XVI secolo è considerata dai protestanti un rinnovamento, mentre per la Chiesa cattolica è impossibile festeggiarla. Come commemorare assieme un avvenimento separatore? Di fronte a questa domanda, la Commissione internazionale luterana cattolica ha preparato un documento che si intitola «Dal conflitto alla comunione». Esso richiama tutti gli elementi storici e le controversie del passato, mettendo in evidenza i punti sui quali i dialoghi teologici hanno fatto dei passi in avanti nella prospettiva di una comunione tra le chiese. Questo documento mostra chiaramente come le chiese abbiano cambiato le proprie accentuazioni. Non si può certamente cambiare il passato, ma lo si può interpretare in modo costruttivo per l'avvenire. L'importante proposta che ne deriva è che il Giubileo della Misericordia non debba più veder separati i protestanti cattolici, i primi a elogiare la Riforma e i secondi a opporsi, ma che tutti possano trovare nella Riforma il loro fondamento comune, la riscoperta del Vangelo. La mia relazione intende mostrare che l'unico balsamo che i cristiani possono portare in mezzo alle sofferenze del mondo è il senso del Vangelo. Ma cos'è il Vangelo? Arriviamo al collegamento col Giubileo della Misericordia. Il Vangelo ha anche altri nomi, in particolare il bel nome di Misericordia, rimesso in auge da Papa Francesco, e il nome di Giustificazione nelle chiese della Riforma. Io vorrei mostrare come questi due fiumi biblici, la Misericordia e la Giustificazione, si irrigano reciprocamente e ci permettono di collaborare meglio nella testimonianza cristiana. E nous permettent de mieux travailler ensemble dans le témoignage chrétien. Vorrei anche mostrare il potenziale teologico della misericordia unita alla giustificazione protestante e i suoi problemi, in particolare nella pastorale, indagando il suo potenziale a favore del mondo ecumenico con il quale continuare il cammino verso l'unità delle chiese. La sfida finale è allora andare oltre l'ego delle chiese. La misericordia e la giustificazione saranno ancora più necessarie in un'ulteriore difficile tappa, la vera conversione spirituale con cui ogni chiesa diventa consapevole di aver bisogno anche dei doni delle altre. La cosa più complicata oggi è la paura di ogni chiesa per il proprio avvenire, la propria identità, la propria sopravvivenza. Tutto ciò conduce a radicalizzazioni identitarie. Le identità fissate su alcuni principi, quello biblico, della tradizione, diventano così punti di resistenza. Il problema oggi sono le resistenze opposte dell'ego ecclesiale. Ogni chiesa è preoccupata del proprio ego. Su questo punto è necessaria una vera conversione. Noi siamo in primo luogo responsabili non nei confronti della nostra Chiesa, per quanto essa sia importante, ma nei confronti del Vangelo. Il gruppo di Domb, in tutti i suoi documenti, fa appello a una conversione e chiede che ciascuna Chiesa si ponga la domanda: in quali aspetti la mia tradizione deve lasciarsi riformare dal Vangelo? Ogni Chiesa risponderà per se stessa. Où ma propre tradition doit-elle se laisser réformer par l'Évangile? Chaque Église répondra pour elle-même. Per quello che riguarda le chiese eredi della riforma, esse devono lasciarsi interpellare e lasciarsi criticare riguardo alla loro disseminazione, spesso coltivata con eccessiva negligenza, come ricchezza delle diversità. L'atteggiamento riformatore, con la sua insistenza sulla Chiesa come avvenimento dello Spirito Santo e sulla comunità locale riunita attorno alla parola di Dio, per quanto sia corretto dal punto di vista teologico e fecondo in vista della missione, ha avuto anche come conseguenza alcune separazioni e alcune forme di concorrenza che non si giustificano. La fierezza dell'identità non deve impedire la riconciliazione ecumenica. On soupçonne facilement les œcuménistes de trahison. Gli ecumenisti sono spesso accusati di tradire l'identità. L'ecumenismo deve rimanere uno sprone per tutte le chiese, tale da renderle vigilanti contro l'autosufficienza e contro l'imprigionamento della verità. L'ecumenismo è parte integrante di una teologia equilibrata e interdisciplinare. È un'ispirazione per il dialogo interculturale e interreligioso. Apre a un orizzonte di speranza. Donc nous espérons que l'œcuménisme se poursuivra ainsi. Merci beaucoup. Spot. Blu Radio Veneto vi porta nelle sonorità house più nuove di House Radio Show. House Radio Show, un'intera nottata di anteprime house da ascoltare e da ballare, scelte e mixate da Stefano Peruzzi DJ. House Radio Show, ogni sabato notte, da mezzanotte, su Blu Radio Veneto. Ciao, sono Chiara Placenti e vi aspetto tutte le mattine, dal martedì al venerdì, a Piazza in Blu, per guardare insieme ai principali temi di attualità, come vengono raccontati dai giornali e commentati da analisti, testimoni e protagonisti, senza dimenticare gli approfondimenti, le storie, le curiosità. E non fateci mai mancare il vostro contributo, scrivete, messaggiate, chiamate. Insomma, passate anche voi dalla piazza. Piazza in Blu, alle 9.06. I giorni della Chiesa. Gli applausi per la professoressa Elisabeth Parmentier della Facoltà di Teologia dell'Università di Ginevra, teologa luterana, seguito il suo intervento a quello del teologo cattolico padre James Puglisi del Centro Pro Unione di Roma. Ringraziamo ancora Don Riccardo Battocchio per la traduzione dal testo francese. Trovate la versione integrale del testo dell'intervento, questa era solo un'ampia sintesi, sul sito fttr.it. Ringraziamo l'intera Facoltà Teologica Musica del Triveneto per aver messo a disposizione queste registrazioni. Ringraziamo i Didai e la parte tecnica, voi tutti per l'ascolto. Da Mirko Cavallin, ancora buona serata. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.